Calmatevi, dol mio, di quel ribaldo vedrem puniti in breve i gravi eccessi, vendicati sarem. Ma il padre, oddio! Convien chinare il ciglio al volere del ciel. Respira, oh cara, di tua perdita amara, fia domani, se vuoi, dolce compenso, questo cor, questa mano, che il mio tenero amor. O dei, che dite, in si tristi momenti? E che vorresti con indugi novelli accrescer le mie pene, crudele? Crudele!